No, vabbè, sì, al di là di ulteriori peggioramenti che ci sono stati quest'anno, tra cui insomma un ampliamento smisurato della zona di consegna che ha portato alcune tratte di notte, soprattutto per chi fa le consegne in bicicletta, fuori nell'area metropolitana in maniera abbastanza rischiosa. In più, introduzione con la possibilità del cliente di poter pagare in contanti gli ordini, che fa in modo che il fatturino debba tenere una parte in contanti con sé. E, insomma, a fine fattura molti diversi si sono trovati i calcoli sbagliati e ci sono diversi soldi, ore lavorate, consegne fatte che non risultano sulle fatture. In particolare, questo è l'ultimo. Novità che appunto fino a qualche settimana fa Glovo manteneva ancora degli slot orari dove ci stava un minimo garantito, adesso li ha aboliti, cioè li sta gradualmente abolendo, ed entro la fine del mese non ci saranno più ore dove sarà garantito anche quei pochi 3,40 euro, 4 euro netti che erano prima, adesso non ci saranno più. In diversi si sono lamentati, in diversi stanno iniziando anche un po' ad attivarsi, una componente anche un po' particolare, soprattutto di migranti, e ci stiamo vedendo in queste giornate, stiamo facendo alcune diverse assemblee per capire come muoverci e come ordinare iniziative in futuro. Ecco, la prima cosa che ti vorrei chiedere è, diciamo, anche rispetto alle altre aziende che ci sono, che agiscono nello stesso settore, come si colloca Glovo, quindi se c'è una differenza sia nella composizione, diciamo, dei riders, delle persone che ci lavorano, che nella retribuzione e nei diritti, diciamo. Ma grosso modo, piano piano, insomma, le piattaforme un po' si stanno uniformando anche come composizione, diciamo, da migranti, giovani studenti, persone oltre i 40 anni in cerca di un riempitivo. Le condizioni di lavoro, grosso modo, ci stanno un po' uniformando, grazie anche all'introduzione del mercato di Glovo, che ha introdotto il pagamento a consegna stimato sulla base dei chilometri svolti in linea d'aria durante la consegna. Per cui è sempre un peggioramento ulteriore rispetto alla paga a consegna normale, perché pone sempre sul rischio del singolo, a seconda che ti capita l'ordine distante o meno, il fatto che tu possa guadagnare di più. Per cui tendenzialmente appunto la forma di retribuzione principale è quella a consegna, stimata sui chilometri in linea d'aria fatti durante ogni consegna, una cosa che hanno introdotto Glovo e Uber in particolare sul mercato, e piano piano altre compagnie come Deliveroo hanno abbracciato questo modello, un modello che comunque porta ulteriormente a deteriorare le condizioni di lavoro, perché la responsabilità su quanto guadagni a fine giornata, sempre stimato su un parametro legato alla produttività del singolo, su quante consegne uno riesce a fare durante una giornata di lavoro, è un rischio ulteriore che appunto si va ad aggiungere. Il fatto che appunto più è lunga la consegna che mi viene assegnata, più riesco a guadagnare. Quindi su questo alcune compagnie, come dicevo prima, Deliveroo, hanno con il Dynamic Fee hanno abbracciato un modello simile, perché comunque è quello che rende di più sul mercato, che è un fatturino, se lo mandi per strada ti costa di meno. Ecco, quello che rende di più su un mercato che al momento continua a non essere regolamentato, nonostante le promesse di governo, voi ovviamente rivendicate anche questo. Ti volevo chiedere se nel frattempo c'è stata qualche risposta. Ho visto anche che questa mattina il PD ha depositato una proposta di legge sempre per la regolamentazione del lavoro dei riders. Ma appunto non sappiamo nulla di dichiarazione stampa che prima ci sta tramite un post Facebook, poi oltretutto Di Maio che tirerà fuori l'ennesimo emendamento, adesso il Partito Democratico, insomma, per l'ennesima volta ribadiamo che siamo un po' stufi delle promesse della politica, servirebbero un po' più di fatti, insomma, questo messo in un concesso che sia un intervento legislativo che non pregiudichi quello che attualmente a livello giuridico la più grande conquista che ora abbiamo sul fronte dei diritti, che è sancito dalla sentenza del Tribunale di Torino sul processo dei 5 ex riders di Foodora. Certo, e a proposito, diciamo, di fatti, invece, rispetto alla parte politica che tuttora non agisce, ci sono stati nuovi scioperi nell'ultimo periodo organizzati da Riders Union Bologna, conclusi con quello del 1º maggio. E approfitterei del fatto di sentirti per chiederti anche com'è andata. Ma i scioperi sono andati molto bene, siamo riusciti in diverse occasioni a bloccare o sospendere nei principali locali partner della piattaforma Deliveroo per i turni delle domeniche sere. Ci hanno riportato a un piano più mobilitativo, col fine anche di fare pressioni sul governo purché appunto non intervenga con un emendamento, una cosa appunto difficilmente consultabile, che non ha neanche la garanzia di poter essere discussa in Parlamento, ma con un atto legislativo più forte.